Il prossimo 21 aprile in streaming su Bandcamp verrà proiettato a casa tua un docu-live marchiato Tre Allegri Ragazzi Morti con la regia di Davide Toffolo, con cui siamo al telefono. Buon pomeriggio. Ciao a tutti quanti. Ciao Davide, allora ti chiedo per prima cosa ovviamente di raccontarci un po' come è nato e che cos'è questo docu-live a casa tua. Beh, allora insomma, in questo momento qua non è facile partecipare a dei live, a un live, e questo è un live, anzi è la somma di dei live che abbiamo fatto l'estate scorsa. Sono quattro concerti che compongono un concerto intero, perciò diciamo è l'occasione per vedere un concerto dei Ragazzi Morti con dentro anche una narrazione, che è la narrazione di me, Enrico e Luca nel nostro posto, nella nostra città. Quindi insomma c'è una parte di concerto, ma una parte anche in cui tornate a casa sostanzialmente. Allora insomma sarebbe stato un po', come si può dire, forse cioè, non ci è sembrato giusto chiamare un film da subito, però praticamente è un film. Che ha anche un'altra peculiarità insomma, che è quella che metà del ricavato servirà a sostenere proprio i luoghi dove non si può suonare in questo momento. Beh insomma questa è la prima cosa che faccio dopo aver partecipato a Sanremo, perciò al palco, forse l'unico palco che c'era aperto, che è stato aperto in questi mesi e anche quello più visibile di tutti. Mi sembrava giusto condividere questo momento di particolare popolarità con il circuito, che è quello per il quale i Ragazzi Morti hanno sempre suonato e nel quale i Ragazzi Morti e tanta musica italiana è cresciuta, che è quello dei club. Quindi viva i club, e se guarderete assieme questo film in streaming potrete supportare il vostro club del cuore, diciamo il vostro club della città, o insomma quello che frequentate o quello che vi piace di più. Sono 25 sparsi un po' in tutta Italia, ma io non ho fatto a meno di notare che ce ne sono 4 ben di Bologna: il Covo, l'Estragon, Locomotive e TPO. Quindi insomma il vostro legame con questa città è ancora forte. E la vostra città è una città fortunata, c'ha 4 club, non tutte ce l'hanno, Sì, comunque vabbè, io sono particolarmente affezionato a Bologna, è la città della mia formazione, come tanti provinciali, no? Quando ero ragazzino sono venuto lì e ho imparato un po' che cosa voleva dire la vita, ecco. Quindi sono particolarmente legato a Bologna. Però come dico, una città fortunata, perché 4 club ce ne sono altri che non ce n'ha neanche uno. Insomma, non abbiamo ancora detto che appunto si può acquistare un biglietto, comunque appunto poi la mail per indicare quale club sostenere è a casa tua tarm@gmail.com. Com'è questo periodo per dei musicisti? So che i bacini rock and roll sono poco praticati, ecco. Hai ragione, ma ci stiamo preparando per la riscossa, tutti quanti ci stiamo preparando per la riscossa. Sì, è un momento drammatico, questo non posso negarlo, un momento drammatico, non si suona, perciò oltre ad essere un momento difficile per l'economia di chi suona, per in parole povere, insomma per le paghe delle persone che lavorano in questo mondo, è anche proprio un momento difficile emotivamente, perché comunque per me, per esempio, che sono 30 anni che sono in giro a suonare, immaginare di starmene a casa in modo forzato non è una cosa proprio così facile. Io sono fortunato perché ho anche questa cosa del disegno, perciò in questo anno strambo ho disegnato anche tantissimo, però la cosa più bella è quella dell'incontro, quindi sono lì che faccio di tutto per poter ricominciare a fare questa cosa, e fra queste cose anche questa iniziativa ha un po' quel senso, perché comunque chi avrà la fortuna di vedere questo film, devo dire che io stesso che l'ho messo assieme tutto, ho provato e provo tutte le volte che lo vedo una discreta emozione. Una per il fatto che comunque vedrete i Tre Allegri Ragazzi Morti come non li avete mai visti, cioè nel senso di una dimensione completamente privata, se così vogliamo dire, no? Perciò nel nostro luogo, ecco, nel nostro luogo di origine. E in più vedrete anche una cosa che è tanto tempo che non si vede, cioè un concerto. Un vero concerto, con tanto di partecipazione, sudore e tutte quelle cose lì che fanno di un concerto una cosa unica. Senti, tu l'hai citato tu, quindi te lo voglio proprio chiedere, com'è stata l'esperienza a Sanremo con gli Extra Liscio? È stata bellissima, ho avuto la fortuna di partecipare con un gruppo speciale, incredibile come sono gli Extra Liscio, di avere un contatto speciale appunto con una cultura che è quella del liscio, che è una musica diversa da quella che ho sempre fatto io, che però ha delle affinità. Moreno il biondo dice che abbiamo sempre lavorato sulle fasce, cioè non siamo mai stati la cosiddetta musica mainstream, però siamo sempre stati la musica della gente, e quindi è stato un incontro specialissimo. E poi l'altra cosa incredibile è stata la quantità di affetto che mi si è riversata addosso dopo la partecipazione al festival, quindi non posso che essere contento di questa esperienza. Senti, abbiamo parlato di tante cose serie e anche ovviamente belle, vorrei chiudere con una cazzata, se me lo consenti. Le cazzate sono sempre buone. È un meme che ho visto oggi sul vostro profilo che riguarda LOL, questa trasmissione di cui si discute tanto da adesso. Possiamo dire che uno dei tre allegri ragazzi morti è Lillo? Ok, è vero, mi avete scoperto, mortacci. Io sono sempre provato a parlare in pordenonese perché mi piacevano quei gruppi lì, mi piacevano i gruppi de Pordenone, ma posso dirlo che sono proprio io il cantante dei Tre Allegri. Grazie mille Davide, allora ricordo l'appuntamento il 21 aprile alle 21, quindi accaparratevi i biglietti per vedere il DocuLive a casa tua, grazie mille. Sì, prendete i biglietti e vi do anche un segreto, cioè questo non è un biglietto nominale, perciò se siete in una famiglia comprate un biglietto, lo potete vedere in quanti siete. Certo. Quindi molto economico. Esatto. Grazie, ciao. Ciao, vi abbraccio forte, a prestissimo a tutti.